Con questa intro dance introduciamo la quinta puntata di D-Location 2.0. Nessuno ci credeva. Ne abbiamo fatte 5. Ne abbiamo fatte 5. Una puntata strabiliante. Ci siamo visti per 5 settimane di Potevamo vederci anche per 6 settimane, però siccome siamo degli scapocchioni abbiamo detto una non la facciamo, ne facciamo solo io 5. Oggi stavo per far Friana. Eri vicino, però siamo venuti a prendere per le orecchie, sì. Ti abbiamo portato. Potevo scrivere a un certo punto, vabbè, voi cominciate e poi vi raggiungo. Certo, certo. Ci vediamo domenica 31 dicembre alle 19.47. Ovviamente 31 dicembre l'anno non è specificato. Non specificato. Comunque tutta questa puntata di Silvius. Esatto, io domani prendo baracca e burattini e me ne parto. Torno a Bologna. Nel profondo in Alta Italia. Non avete idea di quanta gioia ho in corpo. Ma come? Insomma, nel profondo nord, sì, così sì, bene, sì, una meraviglia, so, insomma, comunità sulle pareti, la nebbia. Ma questa è solo la nostalgia di quando lasci la Puglia, lo sapete bene. Questa è la verità, perché quando vieni in Puglia piangi perché magari ci devi tornare, però poi piangi pure perché te ne devi andare. Esatto, quante emozioni, quante parole. Ma io poi sto posto, la Puglia, non l'avevo mai sentito, a quanto pare va fortissimo. È andata fortissimo su tutte le guide turistiche, ne parlano tutti bene. Sono tutte le radio che vengono a trasmettere dalla Puglia. Tipo, non lo so, Radio Norba, che di conversa. Radio Gamma. Insomma, questo è lo spirito della quinta puntata di D-Location 2.0. Diamo spazio già alla musica. 3, 2, 1, benvenuti. D-Location. We'll be right back. questo era il Queen of Stone Age, uno dei nostri gruppi preferiti. Lo ho pianto dire. Come un bambino su questo pezzo. Vabbè, esatto. Ma tu, capito, come dire, con questi pezzi commerciali ti diverti, ti emozioni. A te, Silvio, invece, Queen of Stone Age? Io ho due magliette, oggi volevo mettermene una, ero indeciso fra quale, ho preso che sia sotto un'altra, quindi... Scelto una... Insomma, sì, andiamo ad un altro gruppo. Comunque fanno bellissime magliette. Esatto, molto belle, molto belle. Alla moda. L'anno scorso è uscita l'ultima maglietta. Ma figata. Una figata di maglietta. Queen of Stone Age con Josh Homme, insomma, uno dei padri fondatori del genere stoner. Sì. Assolutamente, possiamo dirlo. Noi siamo fervidi fan, lo diciamo, non ce ne vergogniamo. Come nella scorsa puntata abbiamo detto che il re. Perché dovrei vergognarmi? No, non c'è niente. Alla fine, che è rimasto in questi anni? Niente, cioè, dal 2000 in poi c'è la merda. Cosa c'è rimasto? Ci sono rimaste solo le squadracce in azione a Trieste. Apriamo così oggi. Calma. Come calma? Trieste, sono pur Italia. Sempre gli anni venti. Esatto. A parte tutto, Trieste, Italia. E Italia, Italia, Trieste. Non lo so, vabbè, però bisogna chiederglielo. Chiediamoglielo a Salvini se è Trieste, Italia. Lui, visto che conosce bene tutto il territorio nazionale e i confini. Però a quanto pare a Trieste, che è un paese, anche una città molto bella, anche invitiamo tutti a visitarla. Lo sapevate che... No, perché la sai, cioè, c'è qualcosa aspetta. Aneddoto. Aspetta. Dai. C'è un monumento famosissimo a Trieste, la colonna... Ecco, facciamo vedere il gesto che sta la colonna di qualcosa, cioè c'è una colonna, tipo la colonna di qualcuno che avrà edificato, però è fatta in pietra di Trani. Quindi, e vedi, quindi c'è sempre un tocco di Puglia. Pietra di Trani, Trani! Comunque stiamo parlando di una città talmente gioiosa, bella da vivere, che Italo Svevo ci ha scritto La coscienza di Zeno, insomma... Un libro notoriamente allegro, gioioso, spensierato. Sì. Trieste è conosciuta anche ora per la ronda di Forza Nuova per, tra virgolette, ragazzine che si prostituiscono con gli africani. Calma. Numero due, sì. Cioè rosicano perché gliela danno ai neri e non a loro. Probabilmente sì. Fondamentalmente. Questa è la sostanza. Ma poi con quali soldi questi africani ci rubano il lavoro e le donne. E le puttane. Vabbè, sì, esatto. Vabbè, così se secondo sti fascisti di merda, se tu gliela dai a chi non ti piace, sei una puttana. Però sì, esatto. Cominci ad essere meno fascista, magari qualche ragazza si avvicina. Esatto. L'azione rivendicata su Facebook, Fedriga, che dovrebbe essere il... sindaco di Trieste, probabilmente. Penso di sì. Non commenta. L'assessore alla sicurezza applaude Forza Italia esibizione muscolare. Cioè? Cioè, probabilmente anche loro sono un po' invidiosi di come sta andando, perché probabilmente trombano più i negri di Silvio in questo periodo. Nettamente. Quindi c'è un po' di invidia generale. Quindi continuando con la notizia, poi tutto questo per attirare le ragazze, si vestono tutti uguali con una pettorina rossa. Ma perché quando qualcuno si mette la pettorina in Italia si sente sempre importante. Certamente, sente importantissimo, e salgono le scale. Potete vedere la foto. Infatti quella, diciamo, catering frangente della macchina la uso per qualsiasi cosa. Entrare nei backstage, Rimorchiare cioè, sono della sicurezza. Oppure menare qualche negro. Gina Marquez, Bisex Alarm, mi piaceva dirlo così, Mr. Bisex. Questa è una canzone che mentre la mandavamo, no? In realtà dovete capire che ce le ascoltiamo le canzoni, anche se il programma è registrato, noi ce le ascoltiamo perché ci piace quando Cappello ci mena sempre la musica buona. Poi il bello è che sta raschiando il fondo, sta menando l'immondizia. Se avessimo la telecamera ci vedreste ballare, insomma fare cose sconce. A proposito, a proposito di Bisex Alarm, mi è venuto in mente un'idea per un carro al prossimo Gay Pride di non so dove insomma chi accoglie la proposta la riceve. Maruggio il esatto, famoso Gay Pride di Maruggio. Avete presente Mr. Bison di Street Fighter, sì, il poliziotto eccetera? Fai Mr. Bisex. non sarebbe una cattiva idea. Comunque andiamo più nerd e gay al punto giusto. Esatto. E anche Gail diventa solo Gail. Stiamo già facendo un intero un intero panteo, un Gay Pride a tema, un'edizione arcobaleno di Street Fighter Rainbow Edition. Vabbè, continuiamo con le notizie perché abbiamo una nuova rubrica, la vogliamo lanciare. Prego. Vogliamo dare notizia di quella che è la pubblica sicurezza in questo paese, perché tanto ci proteggono, tanto ci vogliono bene. Stiamo parlando della scuola di polizia. Perché questa rubrica? Perché l'abbiamo voluta introdurre in questa puntata? Perché la notizia è fresca, fresca, fresca. Esatto, fondamentalmente gli sbarchi stanno diminuendo perché l'autunno si avvicina e quindi il nostro nominato deve prendersela con qualcun altro. In questo caso i poveri. Esatto, perché i poveri si sa, cioè sono pericolosissimi. Sono pericolosissimi, i poveri, i senza casa e i centri sociali. Pericolosissimi anche loro, pericolosissimi, senza casa e i centri sociali, non ne parliamo proprio di pericolosità. Già non hanno la corrente, diamogli la contata. Che cosa succede questa settimana? L'innominabile, innominato, la nostra Martina del cuore, annuncia, ecco il taser, chiamatelo come volete, ma fa sempre male, nelle fondine, mercoledì via alla sperimentazione. Ora lo annuncia, non lo scrive da nessuna cazzo di parte, non entra in un ufficio pubblico, non c'è, neanche per sbaglio, non c'è neanche una riga sulla gazzettina ufficiale, nulla, zero. Si parte da una c'è l'app Montecitorio. Esatto. Così parte, così mentre mangia il panino della nonna a San Severo, cioè, le mena direttamente sull'app. Si parte in una dozzina di città, ragazzi. La novità annunciata da Lord Voldemort da Darth Vader su Facebook per aiutare migliaia di agenti a fare meglio il loro lavoro, ovvero atterrare gente innocente in atroci sofferenze alle spalle, correndo, insomma, tanto. E dal Viminale arriva anche una stretta sull'occupazione abusiva, attenzione, subito un censimento e sgomberi più rapidi. Su questa notizia io volevo specificare che la Cassazione qualche settimana fa si è esposta in maniera favorevole nei confronti di quegli spazi sociali, precisamente, che, anche se occupati, svolgono un ruolo sociale all'interno della città, del luogo dove si trovano. Quindi, soprattutto se gli spazi andrebbero incontro all'abbandono perché non hanno una proprietà. Bravo, bravo. Quindi caro Matteo, puoi sgomberarci, puoi cacciarci, puoi farci quello che vuoi, lo dico a noi in generale, non parliamo di noi perché noi siamo sempre super partes, però sappi che c'è sempre qualcuno che più o meno ci darà ragione. Vabbè, però non voglio arrivare alla Cassazione. La storia, la storia, la storia. La storia ci darà ragione. Tra l'altro, tra i prossimi giorni, parlando appunto di argomento polizia, uscirà, è già uscito, è già stato proiettato al Festival di Venezia il film sulla morte di Stefano Cucchi. È un film alquanto realistico, alquanto crudo, alcune dichiarazioni. Pare che si concentri soprattutto sulla sul vissuto di Stefano, di sì, come si sentisse abbandonato. Sulla mia pelle, famiglia. Si chiama il sulla pelle, mia pelle. Il film. Non l'ho visto. No, neanche io ma l'ho visto. Sospendo il giudizio, ovviamente. A sì, differenza delle associazioni di polizia, sì, che hanno già detto che è brutto. Perché? Sanno già chi è l'assassino. Cappello, solo tu sai farci tornare 14 anni da oggi a domani, come se non fosse in un secondo. Io sono tornato ragazzino, mi stavo quasi per spremere un brufolo. Roots Bloody Roots dei Sepultura, un pezzacchione, ragazzi. Rigorosamente da MP3, non abbiamo mai comprato un disco. Questo vorremmo precisare. Anzi, questo forse è l'originale scaricato da Napster con la 56K ad Audio Galaxy. WinMX, ve lo ricordate WinMX? Bear, implorare Bear Share, attenzione, per un po' di tempo. Sì, sì. Insomma, dopo questi piccoli cenni da nerd degli anni 2000, continuiamo un po' con le notiziole, che non sono state tante questa settimana, ma siamo andate così a spulciarle, soprattutto dalla prima pagina di Repubblica. Siamo fatti un culo così a trovare le notizie. Ecco, così in realtà Silvio faceva piccolo. Ragazzi, io tutta la settimana, ogni volta che leggevo una notizia, ah, questa la dovevo dire, la dobbiamo dire, e poi non la scrivo. Certo, siamo dei cazzulloni. Ma così ci piace. Parlando di lavoro, se vogliamo entrare in questo argomento molto spinoso, molto particolare, è un argomento che riguarda molto Silvio virus da vicino. Sì, beh, veramente. Una notiziuola sempre da Repubblica per quanto riguarda il mondo della scuola. Scuola, concorso incostituzionale. Ora, già questo è un ossimoro perfetto. Sì, no? Esatto. Per chi ha seguito magari più da vicino la faccenda, bravo, può ridere maggiormente per non piangere, sapendo che all'inizio il concorso era stato bloccato perché i sistemi informatici non riuscivano a reggere, secondo loro, le iscrizioni. Sì. Ovviamente tutto questo nascondeva l'incostituzionalità. La verità è questa. Il Consiglio di Stato boccia la prova per i precari già abilitati. Quindi chi già si trovava nell'ambito 36 della scuola, mesi di servizio, chi sì, aveva 36 fare, mesi di servizio poteva fare questo concorso per sì. poi ritrovarsi di ruolo dopo un anno di tirocinio, sì. fondamentalmente. Questo adesso non invece succederà. No, adesso non vale più. Non vale più, adesso dovrai andare tranquillamente come tutti gli altri professori del mondo a lavorare a McDonald's. Che giusto. Dire come fanno il Big Mac i professori laureati in filosofia, madre mia, nessuno. L'altro giorno appunto eravamo a fare una grigliata con amici, sì. ecco perché sapete questo programma è molto di informazioni ma più che altro di cazzi nostri, perché ci piace molto parlare dei nostri cazzi. Eravamo appunto a fare questa grigliata con i nostri amici qui in un lido Trullo Beach, sempre sì. qui nella nostra ridente città di Molfetta. Io ero in vacanza. Sì, ero in vacanza. Eri a Marina di Pulsano, cioè, cosa stava? In vacanza, ti stavi prendendo i fumi dell'Ilva. Ma che cosa stai facendo? Buonissimi i fumi dell'Ilva. Terapeuta. C'ho ancora le bolle. Ma bene, abbiamo notato che durante questa grigliata, tu che non c'eri, caro Pisari, chi era la formazione composta appunto dei mastri fuoco, sì. di coloro che si occupavano del fuoco, erano nell'ordine un artista, sì. dipinge, esatto. un correttore di bozze che lavora per una casa editrice, sì. un videomaker, esatto. sì. Poi che cos'altro c'era? C'era un assistente tecnico di Linkam. Vero? E poi? Un filosofo. Ah, cioè, solamente che te l'ho detto, come fa il Big Mac il filosofo? Non avrete capito nessuno. Che come versa i contributi la nostra comitiva non li versa nessuno. Esattamente. Comunque, tutti quanti possono ritenersi più tranquilli, tutti quelli che sì. non devono fare, che non hanno già l'abilità, perché sì. anche il loro concorso è a rischio. With no harm, I got my grub on, but didn't dig out. Finally got a call from a girl I wanna dig out. Hooked it up for later as I hit the dope. Thinking, will I live another 24? I gotta go, cause I got me a drop top. And if I hit the switch, I can make the ass drop. Had to stop at a red light. Looking in my mirror, not a jacker in sight. And everything is alright. I got a beat from Kim, and she can fuck. And I'm asking y'all, which part are y'all playing basketball? Get me on the court and I'm troubled. Last week fucked around and got a triple-double. Freaking niggas every way like MJ. I can't believe today was a good day. Drove to the pad and hit the showers. No static from the cowards. Cause just yesterday them booze tried to blast me. Saw the police and they rolled right past me. No flexing, didn't even look in a nigga's direction as I ran the intersection. Went to show dog's house, they was watching you on TV raps. What's the haps on the craps? Shake em up, shake em up, shake em up, shake em. Roll em in a circle of niggas and watch me break em with the 7-11. 7-Eleven, 7 even backed on Little Joe. I picked up the cash flow, then we played bones, and I'm yelling domino. Plus nobody I know got killed in South Central LA. Today was a good day. I fuck sister 12 grand. It's ironic, I had the boo, she had the chronic. The Lakers beat the Supersonic. I felt on the big fat fanny, pulled out the jammy and killed the poo nanny. And my dick runs deep, so deep, so deep, put her ass to sleep. Woke her up around one, she didn't hesitate to call Ice Cube the top gun. Drove her to the pad and I'm coasting. Took another sip of the potion, hit the three-wheel motion. I was glad everything had worked out. Dropped her ass off and then chirped out. Today was like one of those fly dreams. Didn't even see a berry flashing those high beams. No helicopter looking for a murder. Two in the morning, got the fat burger. Even saw the lights of the Goodyear blimp, and it went Ice Cube's a pimp. Drunk as hell, but no throwing up. Halfway home, and my pager's still blowing up. Today I didn't even have to use my AK. I gotta say it was a good day. E l'immancabile hip hop, sempre scelto da Cappello nella sua playlist, questo è Ice Cube, Today Was a Good Day. Come ci piace Cappello, come ci piace. Come ci piace scaffare l'hip hop a Cappello. Sì, ma dopo i Sepultura l'hip hop, va bene, va bene. Continuiamo, se è sempre di Rocation 2.0, non l'abbiamo detto all'inizio, noi siamo i Redeem, ma oramai l'avete capito, se non l'avete capito cazzo Redeem vostri. Che sta per... Rock in da Molfetta. Ecco, da in da Molfetta. mi avete trovato un po' impreparato, impreparato. Perché Redeem, perché Rock in Molfetta, perché andiamo un po' sulla cronaca locale. Guarda l'impreparazione al collegamento, come te lo fa subito. Così, collegamento immediato. Immediato collegamento al nostro consulente, nostro inviato da Molfetta, dal campo di Molfetta. In realtà la notizia perché la stiamo dando così? Perché parliamo di pallone per la strada. Vi ricordate? Allora parlo io. Il grande esperto. Ho fatto pallone. Anche un gol in seconda media. Quando eri un cannoniere. Come hai fatto questo gol? Spiegaci un po', dacci un po'. Te lo racconto velocissimamente. Giocavo in porta perché ovviamente ero una sega. Avevo gli occhiali, mi sì. Arriva una pallonata in faccia che paro con la faccia. Con la faccia. Volano gli occhiali, li vado a lasciare nella borsello della bicicletta, sì. Che era dietro la porta avversaria. Sì. In questo modo era ripreso il gioco, mi trovo sotto la porta. Collo di piede, gol. Portiere che segna. E così mi sono ritirato imbattuto, non ho più partecipato. Quindi parliamo di calcio reale. Una grandissima carriera di pistola. Calcio reale vuol dire calcio giocato in strada. Calcio di strada, sì. Sì. E ve la raccontiamo molto velocemente. Molto, molto. Cosa è successo? Qualche settimana fa, alle 10 di sera, sì, insomma, sì, in prima serata. 10:30, Toto. 10:30, Toto. C'erano quattro ragazzi che in una piazza centrale del nostro paese, Molfetta, giocavano a pallone. Hanno fatto un quarto d'ora, 20 minuti di tiri, poi si sono tranquillamente ritirati ad orario popolare. Sì, diciamo. sì, una cosa molto molto esatto. Leggera. Sì, se non che la Padania di Molfetta, sì, un giornale insomma che ha l'apertura mentale. Ma magari fosse un giornale, una pagina vabbè, fake. Sì, vabbè, chiamiamola così. Non volevo sputtanarli, questi qua di questo nome che noi ci inventiamo totalmente Molfetta inventato. Discute. Molfetta discute. Un nome totalmente inventato. Sì, una roba insomma che va avanti e cavalca il degrado, sì, tutte queste robe qui. Cioè, Molfetta invece, perché in realtà non discute con nessuno. Sì, è un broadcasting. Sì, sì, ha lo stesso spirito del nono Simpson. Esatto, bravo, bravo. E se la prende con questi quattro ragazzi dicendo: ecco il degrado della Molfetta, con il bar dei filosofi accanto che lo lasciano fare mentre insomma poi attaccano la idea. Che la colpa è del bar. Certo, la colpa del bar accanto. Se non che la Molfetta migliore, si può dire questa volta, sì. Non siamo in campagna elettorale, buttiamola lì. Dai, diciamolo, sì, la Molfetta bella, quella che piace a noi. Ha reagito spontaneamente, sì. Organizzando la Molfetta Cup a Piazza Principe di Napoli. Nella piazza in questione. Si sono ritrovate ben sette squadre, molto, uno, due, tre, di più. Sì, sì, sì, sì. Sì, vediamo tutte perché meritano. Abbiamo gli Aristocazzi, l'Atletico Secondigliano, Tibia e Peroni. il Deportivo La Carogna, Tre Uomini e un Altro, I Diversamente Profughi, il Paris Saint-Germain, i 50 e lo Scoglio delle Bombe, che si sono battuti all'ultimo tiro, fin sì, tanto che non sono arrivati le cappe d'ingesso. Le famose cappe d'ingesso. I nemici del divertimento, i soliti nemici del divertimento. Sono protagonisti della nostra puntata di ogni settimana. Certo. Cioè, parliamo delle cappe d'ingesso ogni settimana. Abbiamo detto la scorsa settimana, quindi lo diciamo anche ai partecipanti di questa Molfetta Cup, non è reato dire a un vigile urbano su Facebook devi morire. Legalize it. Don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah. I will advertise it. Some call it tampi. Some call it the weed. Some call it marijuana. Yeah. Some of them call it ganja. Of instrument too. Legalize it, yeah, yeah. That's the best thing you can do. For the food, good for asthma, good for tuberculosis, even pneumothrombosis. Got to legalize. Don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah. I will advertise it. Birds. questo era Peter Tosh, Legalize It, perché anche il reggae non manca qui a D-Rocation 2.0. Quando abbiamo sentito Peter Tosh fuori onda ci è venuto in mente un aneddoto. A parte che Legalize It è un inno per la legalizzazione sia del pallone in questo caso. E poi è una canzone che non è obsoleta ancora in Italia, in pochissimi altri paesi. Quanto vorremmo levarci dal cazzo Peter Tosh. Basta. Legalizzatela non tanto per fumarvi le canne, ma per smettere di sentire Legalize. Diciamo, Peter Tosh ci ha fatto venire in mente, ci ha ricordato un aneddoto dei forse primi anni 2000, sempre qui a, sì, siamo lì, sempre qui nella nostra ridente cittadina del Nord Varese. C'erano tre nostri amici, di cui uno con i dread vistosissimi, insomma, stavano lì fumando una canna, vengono fermati da due carabinieri, buttano una canna, i carabinieri ovviamente li avevano visti e fanno, e i primi due seduti davanti al posto di guida e a quello accanto: che ci avete qualche cosa voi due con questo accento? No, niente. E quella che c'ha qualche cosa accanto a te, niente, dice il guidatore. No, niente. Fanno un attimo retromarcia, guardano dietro e fanno: e Peter Tosh là dietro qualche cosa c'ha. Non tanto Bob Marley, ma no, Peter Tosh. Complimenti, molto informato. Le battute dei carabinieri sono sempre state fantastiche. Cioè, secondo me loro fanno una scuola. Sì. Come? Si perfezionano sicuramente in quella scuola. A parte che il carabiniere è sempre napoletano. No, quasi sempre. Se no, di Bari. Perché comunque il carabiniere di Bari fa la sua parte. No, sottovalutata i salentini. Ah, vero. Poi ci sono dei razzisti. Finiamola qua. Rimaniamo a Molfetta invece. Perché Molfetta? E perché parliamo di questo fatto? Perché oggi, domenica, mentre stiamo andando, oggi o ieri? Ieri sera. Guarda, talmente non ce ne frega un cazzo. Che non sappiamo neanche. Però c'è stato il grandissimo evento che tutto il mondo dello showbiz italiano aspettava: uomini, donne, trans, queer, platinette, tutti aspettavano questo momento, il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni. Chi? Fedez e Chiara Ferragni. Precisamente, quelli che ho detto Pisani. Fedez e Chiara Ferragni, dai, Pisani. Ah, okay. Quello tatuato sul Gargarozzo. Esatto. Sì, quello che ha fatto l'inno del Movimento 5 Stelle. Sì. Non era quello che faceva: non siamo partiti. Sì, esatto, siamo una casta. Siamo dei trimo. Basta, ok. No, ero un po' confuso. E appunto, Fedez, quello tatuato fino al collo, e Chiara Ferragni. Sai chi è Chiara Ferragni, no? Dai, cioè, sì, Chiara, so chi è, ma non ne conosco i meriti, a parte aver elevato il cattivo gusto a nuovo standard. Scusami, fammi capire. Ho capito che non ne conosci i meriti, ma chi in Italia chi ha meriti è famoso, scusami. Ragazzi, io che capisco di stile posso criticare. Appunto, potresti scrivere anche tu da fashion blogger, Pisani. Aspettiamo il tuo primo post. Questo matrimonio che ha tanto chiamato i media, tanto chiamato gli invitati. I media è latino. I media è più international. Tramati. Comunque. I media hanno chiamato stiamo sbalenando, tra i quali ospiti, diciamo, c'erano anche grandi esperti del hairstylist, del makeup artist in tutta Italia, tra i quali un nostro conterraneo. Ah, sì, Salvo Binetti. E chi cazzo è? Voi direte: chi è Salvo Binetti, ragazzi? E ve lo spiego io chi è Salvo Binetti. Salvo Binetti è un conoscitore dell'arte. Sì. Sta su internet, ok. E ho conosciuto l'arte di Salvo Binetti trovando dei 6x3 per strada con su scritto Salvo Binetti Art and Science by Tony Pellegrino. E uno capisce immediatamente quello che fa nella certo. Che ho pensato, ma guarda un po', Art and Science. Ho chiesto alla mia compagna: ma chi è questo Salvo Binetti? Ma poi chi è Tony Pellegrino? Chi è Tony Pellegrino? Cioè, se è Salvo Binetti, il marchio, quindi sì, l'oggetto sì. della promozione. E sotto c'è un hashtag Art and Science by Tony Pellegrino. Sarà suo padre. Cosa vendi? Non lo so, questo non abbiamo ancora capito. Fatto sta che lui è a fare i capelli a tutti gli invitati del matrimonio dell'anno. Durante il matrimonio. Questo non lo sicuramente. Sappiamo. Sicuramente. Guarda, perché... sicuramente non ha mangiato un cazzo. Questo è sicuro. Perché al più grande matrimonio del 2018, così come l'hanno detto, insomma, non ce ne frega niente. Sì. Noi la diamo en passant questa. Il menù è stato questo. Insomma, i terroni amplificano le orecchie e si deliziano. Crostino Frudermeier. No, non stanno. Cioè, aspetta, stanno. Ah, stanno. Sì. Ah, allora, 15 euro in più. Tutto il matrimonio era crostino di pasta sfoglia con melanzane, raviolo singolo di ricotta ragusana con melanzane e basilico, pescato del giorno ai profumi mediterranei. Finito. Io direi all'invitato. Questi sono gli antipasti, poi ti sposti nella sala grande. No. È tutto. Tutto. Beh, sta 50 euro però gli invitati sulla busta gliela possono pure togliere. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge, I watched, I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care, I love it, I don't care. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge, I watched, I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. You're so damn hard to please, we gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I love it! Bello, questo pezzo mi ricorda le colonie del 2014-2015 quando portavo i ragazzini in discoteca, cioè facevo io la selezione musicale perché i soldi che dovevamo dare al DJ ce ne intascavamo noi che non c'avevamo una lira, cioè in Inghilterra in realtà non avevamo una sterlina. Bisogna ottimizzare. Eh sì, bisognava ottimizzare il tempo. Sei in un sogno erotico di un prete. No, in realtà no. Sì, dai. No. Anche la discoteca no, erano era troppo forse la sacrestia. No, erano troppo grandi i ragazzini che portavo. Solitamente okay, li preferisco okay. Ogni 9-10 anni, io avevo di 14 anni, già con i peletti non piacevano. Questa è l'icona pop, I love it, per chi non l'avesse capito, questo è D-Location 2.0, il programma più fresco dell'estate. Che sta Icona Pop è proprio il nome del gruppo. Cappello mi fa scoprire un sacco di canzoni che conoscevo ma che non avevo idea di chi fossero né come si chiamassero. E invece vedi, Cappello ti istruisce, ti porta a scoprire frontiere della musica che non avresti mai pensato. E cosa facciamo? Continuiamo a dare notizie, perché questo è un programma di notizie e anche se non ce ne sono noi li andiamo a scovare anche nei posti, nei meandri del web. Per la serie diciamo arresti utilissimi, possiamo chiamarli così, arresti utili, sì. Arresti utili. Andiamo un po' nel territorio, madonna che bella fotografia questa, sì ragazzi, sì, ragazzi. Andiamo un po' in territorio tuo. Sì, ex mio, diciamo, tra Modena e Reggio Emilia, un po' lontano, non so dove sto io. Vabbè, però territorio più vicino di qui, più vicino, nettamente. Sicuramente. Questo, diciamo, è una notizia molto particolare che ci ha colpito questa settimana. Operaio coltiva marijuana in casa, fa i domiciliari. Premessa, io non capisco perché nei titoli scrivono sempre la professione. Sì, no, è vero. In che modo connota il... perché non è negro. Sì, altrimenti scriverebbero la esatto. Scusa, italiano, sì. Emiliano. Emiliano, no. Quindi va bene operaio. Il 28enne lavora in una ditta di Sassuolo. I carabinieri sono arrivati a scoprire la gioga dopo i numerosi appostamenti. Tu immagino un po', le piante erano alte 3 metri. Ora, anche tu, fratello caro, cioè, scusa, occhio, dai, cioè, 3 metri di piante dentro casa. Mettile sul terrazzo e apri il primo elicottero che passa perché sta andando allo stadio per la partita. Ti sto qua, capito? Sto qua. Alzi la mano. Non so cosa servirà, diciamo, mettere in casa ai domiciliari. Sì, a me sembra, insomma, un premio. Contento lui. Sì, guarda, bene. Quasi quasi me le rifaccio. Sì, sì, sì. 4 piante di marijuana, leggiamo, diciamo, per quello che c'è possibile leggere, dalla Gazzetta di Reggio, che diciamo a tutti... Si paga la Gazzetta di Reggio. Gazzetta di Reggio si paga, vabbè. 4 piante di marijuana alte fra i 2 e i 2,75 metri sono state sequestrate dai carabinieri ad un operaio 28enne di Cassiano di Baiso. Che cazzo? Questo è Cassiano di Bison. Operaio in una ditta di Sassuolo, finito agli arresti domiciliari. L'operazione, che è stata portata a termine dai militari della compagnia di Sassuolo, che hanno trovato le piante nell'abitazione dell'uomo. Molto difficile poi trovare piante, vabbè, di questo tipo. A me affascinano sempre le impostazioni delle frasi degli articoli. Il 28enne è finito nei radar dei militari in seguito ad alcune segnalazioni che evidenziavano, vabbè, lo hanno infamato. Avesse nella propria disponibilità la marijuana. Cioè, questo neanche, cioè, piante di 3 metri manco le hanno viste loro, cioè, c'è bisogno che tu ti infami, cioè, ed è finito nei radar, capisci? Cioè, l'hanno infamato, è finito nei radar. Tutti immagini i carabinieri che stanno là con le cuffie ad ascoltare, con le antenne direzionali, il furgoncino della pizza, il stile telefilm della CIA, proprio, stile FBI, proprio. Per beccare i carabinieri che per guardare il monitor col pallino che si muove a forma di foglia di marijuana, è lì l'abbiamo individuato la droga, maresciallo, individuato la droga. Comunque, giusto per continuare brevemente sullo stesso filone, sì. Arrestato per spaccio da un 52enne, siciliano, arrestato, sì, per spaccio dalle generalità alle carabinieri di Ajajaj Brazorf. I'm not afraid to die. forse il video più bello della storia, una delle band più belle anche della storia, è uno dei miei più grandi rimpianti, sono i Beastie Boys. Questo era insomma un Sabotage, uno dei pezzi più belli che il trio ha potuto sfornare nella grandissima carriera, e che parte purtroppo dal punk hardcore e arriva all'hip hop, all'hip hop, all'elettronica, a tutto quello che va anche oltre il genere musicale. Il grande rimpianto è perché purtroppo Mike D ci ha lasciati qualche anno fa, quindi sono rimasti in due, non si esibiranno più. C'è un parco intitolato a lui a Manhattan. Sì. Vabbè, no, a Brooklyn. È vero, perché loro sono dove puoi andare a Fight for Your Right, tu parli. E no sleep in Brooklyn. Quanto simpatico con Silviaccio e quanto siamo simpatici nei Redeem su The Location 2.0 per questa quinta puntata, per le notizie della settimana. Oggi 2 settembre, il 27 agosto abbiamo sentito tutti questa notizia che è stata la prima pagina di un po' tutti i telegiornali, perché Papa Ciccio. Soprattutto Papa succede Ciccio. Una cosa molto particolare, tornato, cioè ogni volta che Papa Ciccio sale su un aereo dice puttanata. Sì, ma infatti cioè è una cosa incredibile. Sarà l'ossigeno. Sarà colpa delle scechini. Forse la vicinanza al Signore. Anche quella. Filiamo in alto per rendere grazie al Signore. Queste e quindi diciamo le puttanate. Ritorniamo alle imitazioni di Pisani. Pisani azzeccatissimo. Mi fai Maradona, scusami, Pisani. Questa gliela servita su un piatto d'argento. Anche di nuovo. Piatto d'argento. Va bene. Fini gay, polemiche per frase di Papa Francesco. Cosa ha detto Papa Francesco? Se sono ancora bambini, va bene, i gay vanno... Ha detto auguri ai figli gay. Ha detto gay. Va bene, sì. Facciamoli entrare, però se bambini, sto proprio sintetizzando, meglio no, si può provare con la psichiatria. Per fare ora, cosa? A quanto pare curarli, perché ritiene... la cura presuppone una malattia. E presuppone anche il fatto che magari qualche... Ma se gay va bene, che cosa curi? No, gay va bene grande. Allora, gay grande. Perché dice non ci puoi fare per niente. Perché altrimenti sarebbe una tentazione troppo forte. Questa è la verità, capito? Questa è la verità. Quindi gay dice Papa. Perché quando parliamo di chiesa siamo... Forse ho capito il ragionamento. Allora, se hai più di 20 anni, ormai ti piace il cazzo e via, fa niente. Non si può fare. Se non hai ancora i peli, esatto. Tu vai dallo psichiatra. Così reprimi la tua sessualità. Diventi prete da grande e poi via con le ragioni. Quindi a quel punto cosa diventa? Possiamo sintetizzare. Sì. Ok. Quindi gay grande sì. Sì. Ok. Se bambino no. Vai da psichiatra, ti curi, così diventi prete e quindi pene nel bambino sì. Io sono Papa Francesco. Sono molto più figlio di Cristo. Mi vesto di bianco, l'ho detto, sono fresco, sono qui con il professor Testo. The Rockish! Shake my power. to the groovy. Apollo 440, Stop the Rock, questo era un pezzacchione sempre scelto dalla playlist di Nico Cappello per la quinta puntata di The Rockation 2.0, sempre by Redeem. Ma la fanno l'app di Nico Cappello? La Nico Cappello. Ma tu lavori con col barbiere là? Sì, sì, The Art and Science of Comedian. Comunque vi prego, fate arrivare questa puntata a Salvo Barbiere, perché Pinetti, come cazzo si chiama lui, perché non sono 5 puntate che non abbiamo ancora un hater che ci ha insultato. Ma vogliamo un hater, vogliamo questa un cosa hater. Mi odiaci, male odiaci. Qualcuno ci odi troppo, ci, ci trovano per la strada e dicono il massimo, la cosa più brutta che dicono è siete carini. Vuol dire fate cagare, però nessuno ce lo vuole dire. Noi vogliamo qualcuno, vogliamo qualcuno che ci scrive su Facebook le cose che scrive ai migranti, diciamo. Tornatevene a casa vostra. Sì, va bene, va bene. Okay. Tra poco, ci sta il tempo di staccare da lavoro. Io volevo fare una domanda a Papa, sì, Ciccio. Perché ci ricolleghiamo un po' a quello che era il blocco precedente. Sì, cioè, perché ricordiamo, lui ha detto che dopo i 20 anni va bene essere gay. Prima si potrebbero fare tante cose con la psichiatria. Sì. Ora, a parte giochini sessuali con la psichiatria, perché dovresti mandare da uno psichiatra un bambino gay? Sì. E non una persona che crede in un amico immaginario e tutto un pantheon di santi immaginari. Cioè, quanti di voi hanno visto Dio, quanti di voi hanno visto un cazzo? È sicuramente più tangibile di Cristo, qualsiasi siano le dimensioni anche. Torniamo sempre a parlare di Santa Sede, perché fa parlare in Italia il Papa, fa parlare anche un po' in tutto il mondo, perché e soprattutto lui parla molto, parla. Come parla Pisani il Papa? E parla un po' così. Oh, uguale, è identico. Cioè, mi fai Chavez. Chavez non me lo ricordo. Era uguale. È un po' più fuerte. Allora, il segreto sta nel buttare la lingua su. Un po' dire, con la patata in bocca. Sì. E dire un po' quello che cazzo vuoi. Tanto sì, lentamente. Tanto io non lo so, lo spagnolo. Fondamentalmente, 20 anni fa aggiungevi la S e parlavi spagnolo. Adesso la lingua si è evoluta. Batti con la lingua sul palato. Tu parli lentamente. Parli molto lentamente. USA, siamo negli Stati Uniti, l'ex nunzio Vigano lancia nuove accuse al Papa, a Ciccio e alla Santa Sede, ovviamente. Cioè, odiaci Papa, odiaci! Mentirono sul caso Davis, che non è la Coppa Davis, conosciuto non è neanche tutti, Jonathan Davis, Davis dei Korn, ma è a quanto pare una delle vittime di violenze che ci sono state. Ovviamente sì, mi fa delle facce. No, nulla, stavo per dire una cosa troppo cattiva. Però no, potrebbe potremmo anche dirla, però in realtà qual è la notizia? Sul sito ultraconservatore l'ex diplomatico vaticano rilancia e stavolta tira in ballo anche il colloquio privato tra Bergoglio e l'impiegata che era stata condannata per aver negato le nozze ad una coppia gay. Non sto ben capendo questo, non sto ben capendo. Quindi lei, si è capito che il problema del Vaticano sono le sedi distaccate. Fondamentalmente sì, in Italia riescono a insabbiare, a spostarli. Sì, esatto, una volta che vai là e le succursali non funzionano mai. Comunque, problemi di comunicazione, hanno bisogno di una rete. Sì, a quanto pare in realtà la Davis non è proprio stata una vittima, ma è stata una delle complici per aver negato appunto queste nozze a una coppia gay. Da un, diciamo, un ordine arriva venuto dall'alto. L'ex nunzio apostolico a Washington, sì. Carlo Maria Viganò. Maria. Carlo Maria, e Maria c'è sempre, certo. c'è stava, come si chiama? Beh, venire in mente il pezzo di Guzzanti, però potremmo aprire un altro Sergio capito. Maria Zazzone, Corrado Maria Pisani. Lancia nuove accuse a Bergoglio utilizzando ancora una volta i media, no, i media, il Papa, ultraconservatori. Dopo il suo dossier sulle presunte colpe del Papa, che a suo dire avrebbe protetto l'ex arcivescovo di Washington, il cardinale Theodore McCarrick, come ho detto bene, accusato di abusi sessuali in una lettera di 3 pagine inviata al sito Live Sites News. Affidabilità quanto forse zezze, probabilmente. Sì, sì. Viganò torna a imputare a Francesco il mancato rispetto delle sanzioni stabilite da Ratzinger, tu pensa un po', nei confronti di McCarrick, e tira in ballo inoltre la vicenda di Kim Davis, una funzionaria americana anti-gay che nel 2015 venne condannata per obiezione di coscienza e perché e che poco dopo ebbe un colloquio privato proprio con Papa Bergoglio. Mi sento costretto a raccontare la verità su quanto accaduto veramente, viste le dichiarazioni del Papa, scrive Viganò nell'introduzione della lettera. Vabbè, continuo ovviamente a una serie di informazioni riguardo. Voi cosa avete capito di questa vicenda? Perché l'articolo è lunghissimo. È lunghissimo, come le 3 pagine di accuse. Sì, sì, sono sì, tutti sì, carteggi sì. E controcarteggi. Ma a quanto pare però il buon Papa Ciccio non è quello che diciamo tutti quanti vedono. Sì. È un po', diciamo, quella chiesa un po' svecchiata. È un po' come predicare bene pene in bambino. Esatto, esatto. Perché la chiesa comunque c'ha tacchettate in petto, fruste, sì, sputi, calci, sofferenza. Però c'è anche la gioia, la gioia, la gioia e l'amore. Get a little closer, can I make you lose control. Oh. So can I make you lose control? Can I get it? little closer, can I make you lose control? Get Grapes, sempre qui a Di Rockation 2.0, l'elettronica, anche perché non ci facciamo mancare niente. Cappello fa le playlist per bene, diciamo la verità, ci pensa su, ci riflette 2-3 giorni, la sforna, ce la manda su WhatsApp e a noi, indipendentemente da qual è il pezzo che va bene, va bene, ci va bene, non ci interessa. Cappello è una garanzia. Ritorniamo sempre sulle frequenze del programma che tanto vi allieta con le notizie della settimana, con una notizia fresca fresca, ma non possiamo darla senza la dovuta e consueta base. Nulari è basso di statura, nulari è al di sotto del normale. Nuvolari è a 50 kg d'ossa, nuvolari ha un corpo eccezionale. Nuvolari ha le mani come artigli, nuvolari ha un talismano contro i mali. Il suo sguardo è di un falco per i figli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali. E su un eccezionale Lucio Dalla con Nuvolari. Perché abbiamo scelto Nuvolari? Perché oggi c'è stato il Gran Premio d'Italia, il Gran Premio di Monza. Parliamo un po' di sport, che può piacere anche a te, Pisani, perché le macchine ti vidi in diretta l'incidente di Senna. Ah, ho capito, ma questo non è che fa da te. Guardavo solo per gli incidenti la Formula 1. Il fatto di tutto un po', del quanto basta, non va bene per tutto, Pisani. Cioè, per lo sport ogni tanto fa anche bene capirne. Oggi che c'è stato? C'è stato il Gran Premio di Monza. Io l'ho visto il Gran Premio. L'hai visto? Sì. Ti è piaciuto? È stato un bel Gran Premio, fin tanto che la Ferrari non si stava vincendo. Cosa è successo? Che ha vinto Hamilton, diciamo, è il britannico della Mercedes, il pilota della Mercedes che vince a lunga in testa la classifica mondiale, ha vinto davanti appunto a Raikkonen. Sì, purtroppo Vettel ha fatto un test a coda in partenza che l'ha buttato alla fine della classifica, poi ha recuperato, è arrivato quinto, però insomma ha segato praticamente la gara. La gara non è andata molto bene. Ovviamente voi direte, ma perché è andato sul Gran Premio? Quando, esatto, che quando mai ce n'è fregato un cazzo? Vi siete scomodati a dare notizia con tanto di base anche. Perché avete dedicato questa tanta importanza? Avete dato? Perché in realtà prima del Gran Premio di Monza il nostro ministro dell'interno ha fatto visita, non ha perso l'occasione per dire la sua quotidiana. Il nostro Lord Sauron ha fatto visita a Monza, ha abbracciato una Ferrari come se fosse un panino con la porchetta. È un po' confuso in quel momento. Confuso. E ha pure fatto la battutina all'unico rosso che mi piace. Potrebbe essere un inizio questo, visto che tutti ce l'hanno con i migranti, sì. Nessuno, tutti hanno perso ogni umanità, fanno tutti schifo al cazzo. A questo punto cominciamo a dire che porta sfiga. Esatto. Diciamolo, esatto. Ufficialmente, Salvini porta sfiga, e questa è la verità. Io poi, che ci condivido anche la stessa squadra di calcio, la passione, Madre ancora mia. Di più mi rode, cioè, questa è la verità, diciamo in realtà lui l'ha fatto un po' come un ruolo da ruolo istituzionale. Colgo l'occasione per invitare il ministro alla festa patronale di Molfetta. Esatto. Magari l'anno prossimo si trova a parcheggio. Just like my metal, cause I can't wait for you to knock me out. Been a minute, and I fucking minute. I can't wait for you to knock me out. Aia, che sorta d'ammazzata! Shut me up, mindless self indulgence. Questi pezzi di cappello, a me sconosciuti. Questo a me è sconosciuto. Tu lo conoscevi, Silvio? Di nome, non di fatto. Tu lo conoscevi? Assolutamente no. Vedi. Il cappello ci fa conoscere sempre buona musica e nuova musica, anche se risalente almeno a 20 anni fa. Nuova solo gruppi già sciolti o di autori morti o con grandi problemi. E comunque per noi è nuova musica. È nuova musica, assolutamente. Torniamo alle notizie, sempre da Repubblica.it. Diamo, diciamo, le cinque frasi. Repubblica notizia. Economia si ci delizia con le cinque frasi che consiglio, no? Che potrebbero stroncarvi la carriera. Cinque frasi dette al lavoro, sai, in team si lavora. In pratica quegli articoli che copia dai blog americani e traduce malamente. Esatto, bravissimo, okay. Bravissimo. Pisani, ci hai visto bene. Quali sono, secondo Repubblica, le cinque frasi che potrebbero rovinarvi la carriera? Secondo Repubblica, alla fine sono frasi anche veritiere, ci siamo confrontati io e Pisani che lavoriamo in un'azienda. Allora, in linea teorica c'è una logica, dietro quello che dice Repubblica, perché le frasi sono... Sì, non c'è budget per questo, te lo avevo detto... Mm-hmm. Non stai seguendo la procedura, questo è un grande classico. Ci abbiamo già provato e questo non è il mio lavoro. Okay. Secondo un sondaggio, queste sono le frasi che potrebbero stroncarti. Va bene, però. In linea teorica, in un'economia che funziona, in un paese anglosassone, queste frasi sono effettivamente mettono in difficoltà chi le pronuncia. Ma in Italia vengono dette più che altro dai capi. Esatto, quindi, bravo. Il meccanismo è invertito. Non tanto dei dipendenti. E invece, quindi questo non è un consiglio diretto ai lavoratori. E adesso quindi facciamo pubblica utilità, pubblico servizio, ve lo diamo noi il consiglio, le cinque frasi, secondo Dear Occasion, che potrebbero stroncarvi la carriera. E partiamo con le cinque frasi che potrebbero appunto stroncarvi la carriera. Numero 5. E capo, si è rotto il portatazzo del computer. Sì, quello con su scritto DVD. E al numero 4. Tranquillo, quella macchia su di Valenti non è sperma. Al numero 3 delle cinque frasi che potrebbero stroncarvi la carriera. Ehi capo, che fragranza in bagno, ma c'eri tu o Alan Prost? Al numero 2 delle 5 frasi. Capo, scusi se è sporco il bag. Sì, è polvere. Ma lei, la frase regina, la frase che si posiziona al numero 1 delle 5 frasi che secondo di Location potrebbero stroncarvi la carriera. Ehi, capo, ieri ho visto sua figlia al rave, ma è maggiorenne. Di Location. Violence, sex, and violence. Sex and Violence, Sex and Violence, The Exploited Sex and Violence, perché non ci facciamo mancare niente a The Rockation 2.0. Siamo alle battute finali di questa quinta puntata, con la lacrimuccia un po' all'occhio, sì, una grandissima con tristezza. La lacrimuccia, perché dalla prossima puntata, l'abbiamo detto all'inizio, diciamo alla fine per chiudere, saremo in due, siamo rimasti in due. Almeno finché non ci danno una connessione decente. Perché, esatto. Finché non arriviamo a livello di Radio Capital, in realtà, quella è la verità, perché potremmo pure fare... che non mi danno dei soldi, io scendo tranquillamente da Bologna, non c'è problema. Silvio domani parte a Bologna, ritorna in Emilia, ovviamente quando sarà presente in territorio pugliese tornerà a registrare con noi, oh, yes. È una parte integrante dei Redeem. Sempre se non si stronchi la carriera con una di quelle frasi e non torni prima. Esattamente, esatto. Possibilità altissime. Altissimissime. Sta al mare, si sta bene, esatto. Qua si mangia bene, costa poco, torna qua, che sto paese aspetta a te. Le gabbie salariali. Bene, pensiamo di aver detto tutto, di aver un po' rallegrato questi 80 minuti del vostro tempo e di avervi fatto perdere tempo un po' in allegria, fatto pensare un po' di meno e fatto informatovi un po' di più, se ci siamo riusciti. Perché sì. No? E poi ora sto realizzando che cominciamo più tardi perché sta il Gran Premio, il pallone, siamo proprio tornati. È tornato l'autunno. Finisce l'estate, ma di Rockation continua. La prossima puntata dei Redeem, Zazzone, Silvius, Pisani e il buon Nico Cappella alla regia. Un fortissimo ciao. To give, but lines say this love is best. Will leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live in a lean-to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The way soda cools my temper. It never cools my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly lovers. You're a couple, especially when your body's double duplicate. And then you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Severed when there's trust to be treated. Someone with fun will hear beats. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Baby, my baby. Oklahoma, Coma, what? Jamaica and Roma.